Ayo, ayo. Ayo, cercate di redimervi un po'. Io non fingo una cultura che non ho, no. L'America ci importa un pimp show che non credo sia ok. Cercate di redimervi un po'. Io non fingo una cultura che non ho, no. L'America ci importa un pimp show che non credo sia ok. Amici di gioca l'hip hop, don't stop. Si beh, niente caccia chi fa zilu gangster rap. Tutta qua raggia, faccio un falò. Come mi spiace i tuoi cd son merda fritta. Gettali che non si assaggia. La cacca cotta sempre cacca. Sei entrato in botta infottato da due cd di 50 cent. C'è, tu c'è non c'eri. Prima c'è un duo dei ceri per te. Mi si diceva pace, amore, unità fra te. Ma poi c'è stato sto cerulio tempo d'oro e c'è. O c'è uno sclero di soldi e 100 business. E certo il business che regola riviste ci rende triste ed accelera le nostre esistenze. Ogni cd oggi è zeppo di montezze, facendo zapping in tv. Che schifezze, c'è eccezionale, eccezionale, veramente. Oggi il rap non svuota, svuota le coscienze. Sono solo essenze materialistiche, le donne trattate da troie o come oggetti che. E tu ci getti, e tu non pensi che. Pure tua madre è una donna o imbecille. Cille, voi che vivete questo thriller, state tranquille, io sono il vostro pimp killer. Rigira mille, la bile nello stomaco. Parlate di soldi e macchine, ne ho il vomito. E se lavori che ci vuole olio di gomito. Mi stai dicendo puttanate più di un comico. La scena hip hop non la riconosco più già. Adesso i figli di papà fanno i gangsta in the club. Ma vai e troia o vai e caga. Questo rap di strada rispetto a te non dà. Bah. Ma vai e troia o vai e caga. Questo rap di strada rispetto a te non dà. Vai io, cercate di redimervi un po'. Io non fingo una cultura che non ho. L'America ci porta un pimp show che non credo sia ok. Io, cercate di redimervi un po'. Io non fingo una cultura che non ho. L'America ci porta un pimp show che non credo sia ok. In fondo poco importa, noi se il mondo questo vuole. Se una troia va in classifica senza neanche cantare, a quanto pare il suo tatuaggio non vale. Tutto quello che mi porto sulla pelle naturale non si può copiare mai. Ah, io e non dire balle. Credono sia solo un film, invece fare rime e arte. Qui non possono arrivarci con i soldi e con le immagini e con le donne facili. Loro si fanno i party, io parto riscuo drammi esistenziali. Ho ancora alcuni grammi di materia cerebrale ben lontani dall'America. No, questa non è una predica, è la maledizione voodoo che li perseguita. Se essere leggero ti fa stare meglio che spegni il cervello, buttalo nel cesso, immergilo. Vivere il vero per te è peggio. Se non sei nessuno e fingi quello che non sai, a un certo punto viene giù. Ne scende la facciata a terra, la tua faccia senza maschera, un culo sporco di merda. Carta igienica, il giornale dove appari non è metrica. Meglio che ti spari o che ti inchini e che ti spani. E scrocchi il ritmo, fatti il disco. Ma di quattro quarti seri non l'hai mai visto, non me ne stupisco. E in effetti manco ci tenevi, quasi mi scordavo che ti crogiolavi nei tuoi versi osceni. Eppure insisto a fartelo vedere che sei falso ed io esisto. E non lo devo al pimp show, ma quello che so. No, io non fingo una cultura che non ho. Sono io e boh. Voodoo e mamma ganja, moda gioca del voodoo clan. Ayo, e ayo. Ayo, cercate di redimervi un po'. Io non fingo una cultura che non ho. L'America ci porta un pimp show che non credo sia ok. Ayo, cercate di redimervi un po'. Io non fingo una cultura che non ho. L'America ci porta un pimp show che non credo sia ok. Amico gioca di pop, don't stop. Don't stop. Non credo sia ok. Aio, cercate di redimervi un po'. Io non fingo la cultura che non ho. L'America ci importa un pimp show che non credo sia ok. Questi oggetti simboleggiano il potere oscuro del voodoo sopra gli uomini. Non fate finta di ignorarci. Con il voodoo si possono controllare legioni di zombie. Davvero, gente, non vi raccontiamo stronzate. Silenzio, per favore, il nostro obiettivo è quello di aprire gli occhi sul mondo. Si riportano in vita i morti. Ma è fantastico, siamo così pochi qua. Ora basta con questo scherzo blasfemo. Forse, mostra ai miscredenti il potere del voodoo. Funzionato! Fa presto, dai, altrimenti il peccatore finirà dritto all'inferno! Sbrigati!